Nel Vangelo da Giovanni c'è una promessa del nostro Signore Gesù che merita di essere presa in considerazione. Io sono venuto affinché i figli di Dio abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10 e 10. Mi chiedo quanti figli di Dio abbiano preso sul serio ciò che Gesù ha promesso. Mi chiedo quanti figli di Dio vivano la promessa di una vita abbondante, esuberante. Quando ci si saluta e si chiede come va, generalmente si risponde e si tira avanti, ma questa non è la vita abbondante che Gesù ha promesso a coloro che hanno posto fede in Lui. Essere nell'abbondanza o nella esuberanza significa avere di più dello stretto necessario. Se per le mie necessità quotidiane ho bisogno di 10 litri di acqua e ne ho 20, io sono nell'abbondanza. Se per comprare un oggetto ho bisogno di 20 euro e ne ho 50, io sono nell'abbondanza. E così per coloro che hanno posto fede in Gesù? Nella mia vita è tutto abbondante o continuo a trascinarmi nel vortice della vita, giorno dopo giorno aspettando solo la morte? Vivo accompagnato da continui lamenti, giusti o presunti che siano, oppure tutto è un di più? Qualcuno penserà che è facile dire che Gesù ci ha dato una vita esuberante, ma con tutto quello che ci offre la vita, con tutte le problematiche che ci sono nei rapporti con il prossimo, com'è possibile parlare di una vita esuberante? E è vero, i problemi ci sono, ma Gesù lo sapeva. Anche ai suoi tempi la vita era difficile. La povertà era ovunque. Il timore di prendere la lebbra, una malattia incurabile ai suoi tempi, era sempre presente. La vita non era sicura perché c'erano i briganti nelle strade. Si doveva subire le ingiustizie da parte di coloro che governavano a pieni poteri. Eppure Gesù ha parlato di una vita esuberante per i suoi seguaci. O Gesù ha detto qualcosa di irreale. Oppure a chi segue le orme di Cristo è possibile avere una vita abbondante. Ebbene, nella parola di Dio ho trovato tre sfere nelle quali viene detto chiaramente che il credente è stato arricchito abbondantemente, tre aspetti nella vita che possono annaffiare ogni pianticella della nostra esistenza. La promessa di una vita abbondante è nel rapporto con Dio e con il prossimo, è nella pace e nella quotidianità della vita. Quando non si tira avanti nel rapporto con Dio e con il prossimo, quando di pace ne abbiamo da vendere? Quando viviamo nell'abbondanza? Cosa possiamo ancora ricercare? Nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo tratta il problema del peccato. Al capitolo 5 dimostra che tutti gli uomini sono peccatori perché tutti discendono da Adamo, ma mediante la grazia ha concesso il perdono a tutti. Poi continua, per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Romani 5, 18-21. Dunque, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Come sempre, la parola di Dio è realistica. Riconosce, come noi, che viviamo in un mondo pieno di dolori, ma è altresì vero che la grazia di Dio è abbondante più del peccato. La grazia è un dono immeritato, e questo contrasta con la legge. Mentre la legge esige la giustizia, la grazia la dona. Mentre la legge benedice i buoni, la grazia disposta a salvare tutti. Ma la grazia non serve solo per la salvezza, essa deve regnare ogni giorno. Se regnare significa avere il potere, quale tipo di potere deve avere la grazia nella vita di un figlio di Dio? Il suo potere sul peccato. Che cosa produce il peccato? Il peccato produce sempre la morte. E la morte è sempre separazione. Separazione da Dio, dagli uomini e da noi stessi. Perciò il compito della grazia è impedire una vita morta. è combattere un'esistenza dove si tira avanti, mentre ogni giorno causa i mieliniti e il peccato sono portato a rattristarmi, per la grazia gioisco, mentre il peccato fa leva sulla mia mente, la grazia lo fa dimenticare, mentre il peccato abbatte, la grazia rinforza, mentre il peccato allontana, la grazia avvicina. Il re Davide commise adulterio e omicidio, ma fu un uomo nelle mani di Dio. L'apostolo Pietro ha rinnegato Gesù, ma per la grazia in seguito ha dato la sua vita per lui. La grazia fa del pauroso un intrepido, del peccatore un santo, fa del pigro un servo, fa della prostituta e dell'omosessuale uno strumento per aiutare coloro che si trovano nelle stesse situazioni. Come disse qualcuno, nelle cose più facili ho bisogno della sua grazia, nelle cose più difficili la sua grazia mi basta. Dalla disubbidienza di Adamo in poi, l'uomo ha perso la pace con Dio, con se stesso e con gli uomini. L'uomo cerca sempre più disperatamente la pace. Ebbene, la vita cristiana è caratterizzata, o dovrebbe essere caratterizzata, da una abbondanza di pace. L'apostolo Paolo così si è espresso in merito: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento, e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Filippesi 4:6-9. La pace di Dio non è sempre una pace razionale, e proprio perché non è sempre logica, la pace di Dio sopravanza la nostra intelligenza. Questo è straordinario. Con la nostra razionalità riusciamo a rimanere in pace, sappiamo controllare le nostre emozioni, ma la pace che procede da Dio è più abbondante, va oltre la nostra razionalità. Noi avevamo bisogno di questo, avevamo bisogno di un elemento che non fosse condizionato da noi per vivere in pace, e Dio ci ha soccorsi, dandoci una pace esuberante. Tra tutte le necessità emotive, forse la pace è la più necessaria. L'uomo guarda la vita come se guardasse l'ultimo gradino della ghigliottina. Tutto è ragione di ansia. Ansia per il presente, ansia per il futuro. Esperti del comportamento umano sono in genere d'accordo nell'affermare che l'ansia risulta da un accumulo di troppi conflitti irrisolti nel subconscio. Quando l'individuo attraversa nella vita diverse difficoltà, se non le risolve, le reprime. L'unico modo per uscirne fuori è parlarne. Proprio per questo la parola di Dio è anche terapeutica. Dio ci invita del continuo a raccontare a Lui ogni nostra motivazione di ansia, di dubbio. Perciò noi dobbiamo cessare ogni altra attività e raccontare dettagliatamente i nostri pensieri e le nostre emozioni. Dobbiamo raccontare le nostre situazioni come se Egli non ne sapesse niente. Con questo atteggiamento sperimento una graduale riduzione dell'ansia, sia mentale che emotiva, i miei pensieri diventano più coerenti e le mie emozioni controllate da una tranquillità che sfugge alla nostra analisi. Come la fede diventerà fede quando cesserà di essere possibile per le possibilità umane, così la pace di Dio sarà vera pace quando questa sarà realizzata al momento dell'impossibile dal punto di vista umano. Prendiamo ora in esame la vita abbondante che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Gesù disse: «Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non siate in ansietà, dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose, il Padre vostro Celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Matteo 6:25-33. Chi legge o ascolta la parola di Dio da tempo, ormai è abituato a queste parole. Proprio perché sono parole conosciute, i figli di Dio non le prendono sul serio e sono inappagati, o, come recita il proverbio, è chi si comporta come un povero, ma ha molti beni. Proverbi 13:7. Avere la coscienza di essere sovraccendente nel benessere non è una cosa automatica, ma occorre avere due atteggiamenti. Il primo è di non essere solleciti nella vita con ansietà. La sollecitudine è una virtù, virtù incoraggiata e lodata da Dio, ma quando la sollecitudine è accompagnata dall'ansietà, allora ciò che è lecito diventa illecito. Sembra che l'ansietà sia un peccato da poco perché in fondo non si fa direttamente del male a nessuno, ma essere ansiosi presuppone una mancanza di fiducia in Dio, la quale è più o meno consciamente sostituita dalla convinzione che Egli non sia in grado di controllare la nostra vita. E come andare in macchina? Se io salgo in macchina di fianco a un autista e inizio ad essere ansioso, preoccupato, apprensivo, significa che non mi fido di lui. Se mancare di fiducia in un uomo è un atto deplorevole, cosa dire se manchiamo di fiducia in Dio? Perciò, se vogliamo avere un'esistenza abbondante, dobbiamo partire dal presupposto che la nostra vita, con tutte le gioie e dolori, è sotto lo sguardo attento di Dio. Poi, per avere una vita abbondante, dobbiamo cercare prima il regno di Dio che le nostre prime necessità, quali mangiare e vestire. Non è certamente una esortazione nuova, ma noi diamo veramente precedenza alla testimonianza del Vangelo, a opere di misericordia, visitare i bisognosi, occuparci degli altri nelle loro afflizioni, alla preghiera e alla lettura della parola di Dio. Conosco una donna con 5 figli che per poter rimanere sola per meditare la parola di Dio e pregare si alza alle 5 del mattino, cosa che facevano i grandi uomini di Dio. Essa, come tutti quelli che danno la precedenza a Dio, realizza che le cose indispensabili le sono date in sovrappiù. Dunque, per un figlio di Dio è preparata una vita abbondante, abbondante nella grazia, nella pace e nelle cose indispensabili. Se non lo è, o Gesù ha detto una panzana, oppure è giunto il momento per i figli di Dio di dimostrare al mondo che le promesse di Dio sono vere. Gennaio 2005. Ellero,